Ciao ragazze! Ciao! Ciao! Dai, va bene, iniziamo! No, no, the secret part. The people down below, we all wanna know how to play the game of life before we got to go. He looked at me and said, I've pondered long, listening to Mother Nature's song. And let me tell you, son, life ain't just for fun, but if you want to have a ball, here's how you get it done. We got to do. E buonasera, buonasera a tutte, tutti, tutto l'ascoltatore di Radio Wombat. Questa è Nervature, la trasmissione che vi parla di solito di piante, giardinaggio, biologia, botanica, progettazione, chi più ne ha più ne metta. Oggi però in realtà è una puntata particolare, come lo sarà anche la prossima, e quindi necessita una premessa. La premessa è non molto felice, ovvero io, Addu, come forse vi sarete già accorti e accorte nell'ultimo periodo, non sono stata molto presente, i miei impegni si sono arcuiti, impegnati, e come vogliate dirlo e immaginarlo, fatto sta che purtroppo, con mio enorme dispiacere, ho dovuto rallentare l'attività della radio. E quindi oggi ritorno in voce, ma innanzitutto sappiate che questa e anche la prossima sono puntate registrate, non è in diretta, quindi lo strumento del pad questa volta non sarà utile purtroppo per voi. E inoltre, siccome appunto i miei impegni si sono aumentati, sono puntate queste diverse in cui non vi porto particolarmente contenuti, o almeno non inerenti di solito alla trasmissione Nervature, ma invece vi porto due playlist musicali in cui vado a riprendere un po' le canzoni che per me, chiaramente a mio gusto, sono state le migliori tra quelle che ho passato in tutte le puntate che ho fatto di Nervature, che sono 57, se non mi sbaglio. Questa sarà infatti la 58esima, e quindi è un po' un regalo musicale che vi faccio questo, e così che, se già non fossero stati chiari, avrete ancora più presente quali sono i miei gusti musicali. Spero che gradiate questa playlist. Sarà una puntata comunque un po' più breve, quindi si aggirerà intorno all'ora e un quarto forse. Cercherò però di parlare poco, giusto ogni tanto per dire i nomi dei pezzi, quali comunque come sempre li ritroverete sul podcast della puntata del sito, cioè che trovate sul sito radiowombat.net. Mi manca da fare un'ultima premessa, ovvero, come vi ho detto, questa è una puntata registrata, non so di preciso quando andrà in onda, soprattutto perché, ahimè, i problemi non sono solo personali, a volte arrivano problemi di forza maggiore, ovvero il nostro sito momentaneamente ha dei problemi perché Archive non sta funzionando, ha avuto dei problemi, purtroppo, nostro malgrado, ci dispiace veramente molto, speriamo che riescano a ritirarlo su, di solito sono molto bravi, quindi speriamo e attendiamo fiduciosi, quindi non so quindi quando questa puntata riuscirà a andare in onda, ma in qualsiasi settimana sia, spero che sia gradita per voi. Bene, Micheto, ho già parlato troppo, iniziate subito a godervi questa playlist musicale, la quale parte con i primi due brani, che sono I Got Rhythm Remastered, in realtà di Django Reinhardt, giusto per iniziare con un po' di allegria, e poi a seguire Life, la canzone Life di Gero. Buon ascolto. Open our hearts, we've got to open our hearts and leave it, and leave it to light. Sometimes you're gonna feel guided. Sometimes you're gonna feel sorrow, but for sure you're gonna feel loved, loved, loved by life. people in the world, Francais to the UK, J.A. to Mali, how we do? Yo, decent people, stand up and be equal. From the left to the right. Andiamo a presentare questi altri pezzi che avete sentito e i prossimi due che sentirete. Allora, avete sentito Street Luck Love di Neka, voce inconfondibile, a seguire c'est bon di Salif Keita, e qui allora decidiamo di proseguire con Lura, Narina, e poi 50.000 di Nina Zilli e Giuliano Palma.

Antechrist, Larry Sheikh, penso si pronunci però She, e poi Le Griot, Mori Kanté, che state ancora sentendo in sottofondo, ma allora continuiamo con questa melodia con Como e O.R. di Mo Horizons, e poi Ice Cream Man, Tom Waits. Dança, essa magia dos movimentos em harmonia com Deus. Essa magia dos movimentos, os movimentos nossos, como é o ar. Thank you. Let me introduce you to your cruise line crew. We could be right in Miami and it's all brand new. The last important show's now up for another round. And see your whole damn fancy. This time you don't know we. It's about to get cranky. The last important show's now up for another round. And see your whole damn recognize this sound. Hey, ho, now people said you know. We ain't got vocal, but we'll lie of the show. We'll lie jump, of the jump, show. Jump. Take one slice of butter for my gutter, pay it later. Take two from the water, so you know it lots to more. Take three to some other seas. Bring it on a platter, turning energy to matter. I'll be your mentor, ball busting centaur. Go and see a Tim Pop, I'll be your buster. There's five JB's, G's. Bob before your majesty, the queen of bees. I'll be your Simba, lion cup ninja. Running like ginger, singing like mustard. That people are gonna get the message. We ain't gonna waste it, let me tell thee. Cause every single minute be more wild and free. Towards affinity, we share the circuit and beyond. Defying gravity, we drive the vessel on and on. Hear me come through the sun, danger to the microphone. Raging my way through the sun, sending you back home. Sending you back home. Jump, jump, jump. Keep moving, move along. Salvation coming for you now. Politicians keep them on the run. Be a new maneuvers. Real chances, true for pursuers. Risk takers, true talker doers. This labor of love can't elude us. Ever ready, we're heading for where the moon is. Ever ready, we're getting opportunists. Celebrate every day when I wake up. Never know when the law's gonna take us. For the most part, fill him with the rhythm and I don't mind. Been around the world, man, I so fly. Globally, locally known, man, I glow like I'm overly holding my own. Normally owning my zone. Forward the motion, the growth. Celebrate all in a close. This is my tempo, nice and slow. This is eccomi di nuovo qui a presentarvi i brani che avete sentito e vi ho lasciato un po' entrare di più nella musica, quindi non vi ho interrotto per un po', ma avete sentito Do It Right dei Sweet Vandals, Tall Ground Deluxe e poi Agoro, K.O.G. and Zongo Brigade, Don't Touch My Tempo, Arrow, Open Your Mind, Usura, e vi lascio con un'ultimissima canzone a concludere la puntata odierna di questa, quindi regalo musicale, come vi dicevo, con un ultimo pezzo, Tat at the Top degli EZ Rollers, proprio per farvi finire di muovere le vostre chiappette sulle vostre sedie e poltrone. Con noi ci risentiamo fra 2 settimane perché, come forse avete già visto dal sito radiowombat.net, la mia trasmissione Nervature è diventata momentaneamente bisettimanale, ma spero di ritornare ben presto in onda settimanalmente, aspettatemi. E dico quindi un'ultima cosa ai miei fedeli ascoltatori e ascoltatrici che qualche volta mi è stato scritto dei messaggi sul pad, io li ho visti, so che non ho ancora risposto, ma li ho visti, sto lavorando sugli argomenti che mi avete suggerito, ovvero l'intelligenza delle piante, e ne parleremo però più avanti. Io davvero mi dispiace tanto per non riuscire in questo periodo a stare dietro a tutti gli impegni, ma sapete, ci tengo tanto a questo impegno politico e musicale e conoscitivo, diciamo, di Nervature, quindi mi risentirete, ci risentiremo e mi raccomando però rimanete connesse perché Radio Wombat regala tantissime altre trasmissioni super interessanti, quindi guardate sempre il palinsesto, mi raccomando il sito radiowombat.net e le frequenze 1359 delle AM per rimanere connesse e connessi con noi. Grazie a tutte e buon ascolto dell'ultimo pezzo, buona serata a tutte e tutti. You know, ladies and gentlemen, it's time for us to present something to you that we feel strongly about. To survive in a world of destruction, tough when you're young, breathe in the system for justice, open your eyes, it's pure devastation, it is this. Survive. You know, ladies and gentlemen, it's time for us to present something to you that we feel strongly about.